Le gioie del poeta, capitolo undicesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice di Giovanni Pascoli. Capitolo undicesimo. Le gioie del poeta. Primo, il mago. Rose al verziere, rondini al verone, dice, e l'aria alle sue dolci parole sibila d'ali, e l'irta siepe fiora. Altro il savio potrebbe, altro non vuole. Pago se il ciel gli canta e il suol gli odora. Suoi nunzi manda la nativa aurora, a biondi capi intreccia sue corone. Secondo, il miracolo. Vedeste al tocco suo morte pupille. Vedeste in cielo bianchi lastricati con macchie azzurre tra le lastre rare. Bianche le fratte, bianchi erano i prati. Queto fumava un bianco casolare, sfogliava il mandorlo ali di farfalle. Vedeste l'erba lucido tappeto e sulle pietre il musco smeraldino. Tremava il verde ciuffo del canneto, sbocciava la ninfea nell'acquitrino, tra rane verdi e verdi raganelle. Vedeste azzurro scendere il ruscello fuori dei monti, fuor delle foreste, e quelle creste, aereo castello, tagliare in cielo un lembo più celeste. Era colore di viola il colle. Vedeste in mezzo a nuvole di cloro, rossa raggiar la fuga dei palazzi, lungo la ripa ed il tramonto d'oro, dalle vetrate vaporare a sprazzi, a larghi fasci, a tremule scintille. Dormono i corvi dentro i lecci oscuri, qualche fiaccola va pei cimiteri, dentro i palazzi, dentro gli abituri, al buio, accanto ai grandi letti neri, dormono nere e piccole le culle. Terzo, in alto, nel ciel dorato rotano i rondoni. Avessi al cor come ali così lena, pur l'amerei la negra terra infida, sol per la gioia di toccarla appena, fendendo al ciel non senza acute strida. Ora quel cielo sembra che mi rida, mentre vado così, grondon, grondoni. Quarto, gloria. Al santo monte non verrai, bell'acqua? Io non verrò. L'andare in su, che porta? Lunge la gloria, e piedi e mani vuole, e là non s'apre che al pregar la porta, e qui star dietro il sasso a me non duole, ed ascoltare le cicale al sole, e le rane che gracidano, acqua, acqua. Quinto, contrasto. Io prendo un po' di silice e di quarzo, lo fondo, aspiro, e soffio poi di lena, vela fiala, come un dì di marzo, azzurra e grigia, torbida e serena. Un cielo io faccio con un po' di rena e un po' di fiato. Ammira, io son l'artista. Io vo per via guardando e riguardando solo, soletto, muto a capo chino. Prendo un sasso, tra mille, a quando, lo netto, arroto, taglio, lustro, affino. Chi mi sia non importa. Ecco un rubino. Vedi un topazio. Prendi un'ametista. Sesto, la vite e il cavolo. Dal glauco e pingue cavolo si toglie e fugge all'olmo la pampinea vite, e da sé tra le branche inaridite tira il puniceo strascico di foglie. Pace, o pampinea vite, aureo s'accoglie il sol nel lungo tuo grappolo mite. Aurea la gioia e dentro le brunite coppe ogni cura in razzi d'oro scioglie. Ma nobil vite, alcuna gloria è spesso pur di quel gramo se per lui l'oscuro pagliol borbotta con suo lieve scrollo. e il core allegra il più villan, che d'esso trova odorato il tiepido abituro, mentre a fumanti buoi libera il collo. Fine del capitolo 11.